ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Secondo me bisogna sempre dire la verità. Guardi, in Gran Bretagna in questo momento si sta discutendo dell'ipotesi di fare dei lockdown in coincidenza con le vacanze scolastiche, perché il prossimo e le prossime vacanze faranno lockdown proprio per bloccare la trasmissione e cercare di... Speriamo a questo punto che non dovremo fare altrettanto noi, con un lockdown magari selettivo durante le feste di Natale, che le nostre sono in quel periodo. Infatti, io penso che questo è nell'ordine delle cose. Quindi lei pensa che forse un lockdown in quel periodo potrebbe starci? Ma guardi, un lockdown in quel periodo potrebbe risettare in qualche modo il sistema, perché così come siamo con questi numeri ci hanno un impatto, cioè il sistema è saturato. Questa è l'intervista che ha seminato oggi probabilmente una sorta di panico nel nostro paese. Il virologo dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, a Rai News 24, ci mette in guardia sui possibili rischi e di una nuova fase di questa epidemia. Un lockdown a Natale è nell'ordine delle cose. Una frase probabilmente... buttata come un pensiero ad alta voce, oggi in tutti i titoli, in tutti i giornali si parla soltanto del possibile lockdown di Natale. Ora, io ho anche valutato il fatto che parlandone noi questa mattina saremmo tacciati di menagrami e vi renderete conto poi voi in quale maniera. Vi giuro, questa mattina Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, Valeria Bernardi, Gloria Guerrera, tutti quelli che lavorano alla messa in onda di Melog, c'eravamo prefissi, oggi parliamo di qualcos'altro, se no tutta la settimana sullo stesso argomento. Ma perché vogliamo fuggire dal fatto che in realtà l'argomento per eccellenza è proprio il Covid? Rendetevi conto che quando si scriverà la storia di questi anni, si parlerà dell'epidemia degli anni 20, di questo millennio, mentre i ruggenti anni 20, gli splendidi anni 20, i meravigliosi anni 20 del secolo passato erano qualcosa che ricordava la gioia, la spensieratezza, la trasgressione. Gli anni 20 di questo secolo e anche di questo millennio saranno considerati in maniera diversa. Quindi stiamo in questo momento vivendo consapevolmente una fase della storia che passerà, come il periodo del Covid-19. Il periodo del coronavirus, come si parlava degli anni della spagnola, degli anni della peste e via dicendo. Quindi prendiamone coscienza e viviamolo intensamente. Quindi dedichiamo questa puntata alla paura del lockdown. Più che la paura, voglio essere positivo a come ci si organizzerebbe nel caso che... È inutile, io raccolgo i discorsi, sento le persone e rifletto sui miei pensieri. Tutti stiamo pensando, se accadesse cosa facciamo? Già sappiamo come ci si comportava in questa situazione, perché ci siamo passati da marzo in poi, siamo stati chiusi dentro casa. Quindi sono tante le idee che possono venirci, ma è più chiuso dentro casa, oppure se chiuso dentro casa mi premunisco di quelle cose, con gli accessori al piacere e alla spensieratezza di cui prima avevo un forte bisogno. Oppure mi organizzo con degli amici, ho la valigia pronta, se io riesco a saperlo mezz'ora prima mi metto in macchina e scappo nella seconda casa. Ecco, dico, queste sono delle ipotesi. Oppure sto già facendo provvista e già mi sto riempendo casa dei generi di consumo che non debba poi andarmi a trovare in giro, oppure anche altre cose. Quindi questa mattina vi sottoponiamo, attraverso il sistema di rilevamento della scala che ben conoscete, la scala è una gradualità di possibili comportamenti rispetto a un evento. In questo caso è una scala a 4 livelli di possibili comportamenti rispetto all'idea che possa accadere che ci sia un altro lockdown. Come vi comportereste? Secondo una gradualità che noi abbiamo legato a quattro passaggi in una scala chiamata Scala Noè. Perché Scala Noè? Noè è quello che un certo giorno gli fu detto da una persona di cui aveva massima fiducia, molta più probabilmente di quante oggi se ne hanno nei virologi, gli ha detto: guarda, Noè, datti una mossa, comincia a fare un'arca, mettici gli animali dentro, che fa un po' tutti schiattano, affogano e tu ti salvi. E Noè cominciò a premunirsi costruendo l'arca, mettendoci dentro gli elefanti, le giraffe, i topi, le piattole, tutti, insomma, la famiglia, i figli, così, e poi mentre gli altri affogavano, loro dall'alto li guardavano affogare. Questa è la sublime storia sacra. Ma oggi voi cosa farete e cosa state facendo? Come vi state organizzando? Come avete in mente di organizzarvi se ci fosse un nuovo lockdown? 800240024, parta la Scala di Noè. La Scala di Noè. Le innumerevoli, accese, infinite discussioni sull'emergenza Covid devono fare i conti con un dato certo. La curva dei contagi e dei ricoveri è in aumento e la tendenza non promette nulla di buono. Inevitabilmente aumentano anche da noi i provvedimenti restrittivi che si stanno prendendo in altri paesi europei, come in Spagna o in Francia, dove è stato annunciato il coprifuoco dalle 21 alle 6 del mattino a Parigi e in altre città. L'ipotesi che rimbalza oggi nei media è quella che più inquieta gli italiani: un nuovo lockdown, magari sotto Natale. Per quanto ognuno di noi ritenga insopportabile la sola idea di un nuovo confinamento casalingo, occorre cominciare a fare i conti con questa possibilità che si fa più concreta. Oggi vogliamo sapere dai nostri ascoltatori come si stanno regolando per affrontare un nuovo possibile lockdown. Chiamate ora all'800240024 e diteci come pensate di prepararvi in base ai seguenti livelli della Scala Noè. Livello 1. Lockdown. Per carità, siete dei porta sfiga, non ci voglio pensare minimamente, non lo prendo nemmeno in considerazione. Ma nel caso, sono pronto a violarlo e a sfidare la legge. Livello 2. Comincio a pensare alle provviste di mascherine e disinfettante, a pianificare al meglio lo smart working per me e la didattica a distanza per i figli. Livello 3. Sto pensando di comprarmi abbigliamento da runner e un cane per le libere uscite quotidiane. Prevedo anche il rinnovo di tutta la mia dotazione informatica per le relazioni sentimentali a distanza. Livello 4. Stavolta non sarò impreparato. Non mi farò chiudere nel mio condominio a sentire inni nazionali dai balconi o a subire delazioni. Sto pianificando di trasferirmi in una casa in campagna con altri amici e vivere come in una comune in piena autonomia e libertà. .00240024, mentre Alessandro Chiappini già ha messo una location natalizia nel suo studio, lo potete vedere nella nostra versione video dal sito di Radio 24, da Facebook, da YouTube, dove volete voi. Insomma, Chiappini è già dentro l'ambiente natalizio. Anch'io mi sono messo delle lucine di Natale attorno a me per dare un po' l'atmosfera di un Natale in cui potremmo, se ha ragione Crisanti, stare chiusi. Noi abbiamo dato quattro livelli, ve li riassumo. Il primo livello è quello di dire: siete di porta sfiga, state zitti, non ci voglio pensare, nemmeno ci voglio pensare. Se appartenete a questa schiera, chiamateci e ditecelo, perché noi è importante stabilire il livello di allerta a fronte di una notizia che potrebbe spaventare. Secondo livello, ci si comincia a pensare gradualmente, si va su Amazon, qualcuno lo sta già facendo, si comprano le mascherine per non trovarsi più di fronte al fatto che possano mai mancare, il disinfettante per non arrivare alle forme di disinfettarsi con la varichina per pulire i gabinetti, pianificare meglio le occasioni di lavoro, magari pensando che forse un computer in più in famiglia potrebbe servire, perché i figli potrebbero fare la didattica a distanza. Insomma, si comincia la brava formichina ad attrezzarsi senza lamentarsi. Livello 3 sono quelli che tentano subito di uscire dalle maglie della possibilità di discernimento delle libere uscite. Allora ci si prende il vestitino, la tutina da runner, perché se si cammina magari si sa che bisogna mettere la mascherina, il runner ha libero accesso ovunque, quindi tutine in acetato rosa fucsia, oppure ci si affitta un cagnolino, si adotta un cagnolino, si compra un cucciolotto. Ricordo famiglie intere che uscivano 6 ore al giorno con questi poveri cani che ormai avevano la vescica distrutta dalle tante pipì che dovevano fare. Oppure ci si organizza a casa, ci si mette dei grandi schermi, si prende dei bei divani. Livello 4. Livello 4 è quelli che già sanno che bisogna assolutamente essere in prima fila, quindi non rimarranno chiusi dentro casa, non staranno a cantare alle finestre, ma stanno pensando, quello che è un'idea, devo dire, passata anche per la mia testa. Chiunque nel giro dell'amicizia, nelle proprie dotazioni personali e patrimoniali, ha una seconda casa disponibile, ci si mette d'accordo due o tre famiglie, si dice: guardate, se lo sappiamo un'ora prima, partiamo tutti, andiamo nella casa al mare di Fregene, nella casa in montagna a Rocca di Cambio, oppure nella casa in campagna a Orvieto, che ne so, chiunque va, io parlo dal medio abitante di Roma, ci si organizza per andare in un posto dove si possa respirare, dove non c'è il vicino che ti guarda, dove almeno puoi uscire e farti una passeggiata. Quindi 800240024, Lorenzo, buongiorno, primo ascoltatore. Buongiorno. Allora, lei nella possibile scala di Noè, a che livello si sente maggiormente rappresentato? Ma io mi sento rappresentato dal fatto che penso che non bisogna assolutamente creare un lockdown perché non ci sono i presupposti. Quindi sì, ma questa, scusi, però ho capito. Allora, livello 1, questo anche noi vorrei, anch'io vorrei essere bello, ricco, pieno certo. Di donne, in piena salute e avere 20 anni. Non siamo noi che lo decidiamo. Sì. Certo, tutti certo. Pensiamo che è una cosa che deve accadere, ma se no, accade però, cosa certo, fa? Però ci sono... Certo, se accade farò come tutti, probabilmente cercherò di uscire poco, eccetera, eccetera. Però ci sono due aspetti che vorrei evidenziare. Il primo è che se oggi il numero dei contagi rispetto a marzo-aprile più o meno è simile, ma il numero dei morti è molto inferiore, vuol dire che c'è... Lorenzo, ma si rende conto quanto è noioso adesso? Lei adesso si mette a fare un dibattito serio, scusi, no. Su una nostra tentativo di alleggerire un po' la tensione, certo, cercando di discernere su quello che nemmeno gli esperti hanno argomenti sufficienti per poterlo prevedere. Scusi, ma cosa fa lei nella vita? Per capire, Lorenzo, se lei può capire subito che chiudo matematicamente non è possibile. Ho fatto diversi lavori. Ho capito, ma lasciamo che questo lo decida chi ha titolo per farlo. Noi in questo momento siamo nelle condizioni che comunque sia, qualunque cosa accada, la dobbiamo subire, perché se si stabilisce, certo. Come si sta stabilendo in Francia, in Inghilterra, in tanti paesi, che ci sarà un lockdown, ci chiudiamo dentro casa, non ci sono santi, possiamo essere d'accordo o non d'accordo, ma questo va certo. Fatto. Nel caso accadesse, metta caso che abbiamo una buona certezza che possa accadere, lei cosa fa? Certo. Si sta già organizzando, oppure... No, come l'altra volta, da un giorno all'altro quello che succede, succede. Non ha pensato... Mi organizzerò in qualche casa, come ha detto lei prima, perché è l'unica cosa che si potrà fare senza incorrere in troppe problematiche conseguenti. Quindi organizzarsi di uscire dalle città, se possibile. Questa forse è la cosa che pensa più utile. Per forza. Penso che sia la cosa ma più lei ha modo perché... di poterlo fare, questo? Diciamo, conosce... Cioè, sì. Perché se uno deve farlo, ragioniamo assieme, deve cominciarsi a organizzare, perché metta caso, non è che lo sappiamo con tanto anticipo, prende la linea il presidente Conte e a un certo punto dice no, da stasera lockdown, fine. Quindi bisogna essere pronti con la valigia e pronti, diciamo, andare nel posto. Ma nel nostro caso è che siamo cittadini di provincia e quindi abbiamo facoltà di movimento abbastanza libero. Abbiamo strade che ci consentono di arrivare nei luoghi che ci consentono di passare a trascorrere del tempo, diciamo così, In armonia, senza pesare troppo le problematiche derivanti dalle divieti di circolazione o quant'altro. Ecco, lei ha già posto una circostanza che tutto sommato è favorevole, uno abita già in un posto aperto, quindi ci sono meno problemi. Allora, intanto saluto e ringrazio Lorenzo per il contributo e ripeto a chi mi ascolta, è inutile che ragioniamo sul fatto che ci piace, non ci piace, giusto, non giusto, lasciamo che per questo ci sono fior di talk televisivi, ogni sera uno si può divertire saltellando da Rai 3 a Rete 4, a Rai 1 nella seconda serata, ci sono tanti esperti che parleranno di questo, però immaginiamo che oggi apriamo i giornali, ascoltiamo i telegiornali, anche il giornale radio di Radio 24, diciamo c'è questa possibilità, che facciamo, come ci organizziamo? Alex, buongiorno. Buongiorno, salve. Ma io direi numero due, non sono, dico, un fan del lockdown, ma nessuno lo è. Poi, forse il periodo migliore che ho passato quest'anno è col lockdown, con la mia famiglia, contro ogni previsione. Sì, non bisogna dirlo questo, però perché dopo la gente che è stata male giustamente si arrabbia. Per molte è stata un'occasione di riscoperta di intimità, questo è chiaro. Mi dispiace molto, io lo dico con rispetto questo, dico che non ho tutta questa paura del lockdown, se c'è questa necessità di nuovo, ecco, mi dispiace. Che, ammesso che non ha paura, che non, lei non abbia paura, già questo è un vantaggio. Da un punto di vista pratico, visto che questa mattina su tutti i giornali questa possibilità, qual è la prima cosa che si può fare perché sia meno pesante possibile? Quale acquisto, quale organizzazione, secondo lei? Boh, guardi, le dirò quello che ho fatto nell'altro lockdown. Ho smesso di guardare i telegiornali, sicuramente, e mi ha servito a livello anche di ansia, di stato d'animo. Sì, ho capito, ma riformulo la domanda perché forse non sono stato chiaro io. Questa mattina nessuno viene in mente di andarsi a comprare un po' di mascherine, del disinfettante o magari delle provviste, visto che dovrà star chiuso in casa probabilmente un periodo. Questo che domando io alle persone. Sentiamo Claudio. Claudio. Ah, videogiochi. Ecco, già ha detto qualcosa. Alex sta organizzandosi quei videogiochi che si possono comprare anche online, quello uno lo può fare anche all'ultimo momento, però pensarci prima. Claudio. Sì, sono qua. Oh, lei cosa potrebbe... In come si sta organizzando, come si organizzerebbe? Allora io mi organizzo con dei libri e con dei film. Il lockdown, se necessario, va fatto perché il problema esiste e dobbiamo superarlo, quindi non è una tragedia, lo supereremo, come abbiamo passato un lockdown più pesante nel mese di marzo. Va bene, questa è una dichiarazione filosofica, mi sta bene, no? Ci fermiamo e prendiamo fiato. Ripeto, la domanda è: praticamente, concretamente, fate qualche azione che quotidianamente normalmente non si fa? Nel caso ci fosse un nuovo lockdown, acquistate qualcosa, richiamate qualcuno, preparate a fare una sorta di sortita da qualche altra parte, insomma, non fate nulla, vi trovate impreparati la sera che vi sarà detto probabilmente che ci sarà un lockdown. A tra poco. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite su Aruba.it. Melog. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci come pensate di prepararvi in base ai seguenti livelli della Scala Noè. Livello 1. Lockdown. Per carità, siete dei portasfiga, non ci voglio pensare minimamente, non lo prendo nemmeno in considerazione. Ma nel caso, sono pronto a violarlo e a sfidare la legge. Livello 2. Comincio a pensare alle provviste di mascherine e disinfettante, a pianificare al meglio lo smart working per me e la didattica a distanza per i figli. Livello 3. Sto pensando di comprarmi abbigliamento da runner e un cane per le libere uscite quotidiane. Prevedo anche il rinnovo di tutta la mia dotazione informatica per le relazioni sentimentali a distanza. Livello 4. Stavolta non sarò impreparato, non mi farò chiudere nel mio condominio a sentire inni nazionali dai balconi o a subire delazioni. Sto pianificando di trasferirmi in una casa in campagna con altri amici e vivere come in una comune in piena autonomia e libertà. Temevo che ci fosse una sorta di incapacità di organizzarsi in chi mi ascolta. Mi dispiaceva pensare che nessuno vuole fare previsioni, tutti rimuovono il fatto che potrebbe esserci questa evidenza. Sta diventando ogni giorno più sicura. Prima dicevano: no, solamente mai possibile, ma sì, forse dei piccoli lockdown, ma forse a Natale. Fra un po' diranno la data di quando si chiuderà probabilmente per un periodo quello che noi consideriamo la libera possibilità di circolare. Ecco, di fronte a questo non volete organizzarvi? Parlavo con Alessandro Chiappini, che sta adesso sotto l'albero di Natale, e mi diceva, dice, ma io almeno compro i disinfettanti. Mi ricordo che nemmeno l'alcol denaturato si trovava più in giro, i disinfettanti almeno cerco di averceli a casa. Altri mi dicono: prendo le mascherine. Nel gruppo Melog ha parlato, il gruppo Telegram, sono attivissimi nell'organizzare la cosiddetta comune. E tutti dicono: ma sì, la cosa migliore, cioè, troviamo una casa in campagna, in montagna, al mare, si ha un po' di verde attorno, un po' di respiro, e andiamo lì con un paio d'amici, chi ci vuole andare con l'amante, chi ci vuole andare con la famiglia, chi ci vuole andare da solo, cioè, almeno non c'ho l'incubo di cose che ho visto terrificanti, gente che sugli scalini condominiali di casa faceva avanti e indietro sulle scale per sgranchire le gambe, almeno uno può camminare. Quindi 800 24 00 24, Anna, quale opzione? Salve Nicoletti, buongiorno a tutti. Allora, io scelgo il livello 2, sì. Ho la fortuna di avere un grande giardino e sì, quindi non farò incetta di mascherine, perché potrò stare in isolamento libero, e poi le mie mascherine comunque le metto al sole e al vento e così si disinfettano, e invece farò incetta di piante, semi per l'orto, per il giardino. Ah, questa è una bella idea, si fa l'orto, chi ha un po' di terra si fa l'orto, perché sì, è vero. Sì, io sì, infatti invito, oddio, tutti quanti. Anche diciamo una visione pessimistica, perché anche piantare l'insalata ci vuole qualche settimana, vuol dire che uno... Però va intanto bene, uno fa l'orto. Comunque potrebbe nascere una passione, e comunque male che va nascerà un fiore e nascerà l'insalata. Grazie. Guardi, a tutti. Noè, che ho citato, è quello che dà nome alla nostra scala. Quando stava proprio per schiattare, che era vecchio, c'era 50.000 anni, non so quanti, il Padre Eterno, sempre che si chiacchieravano loro come niente fosse, diceva: Noè, domani schiatti, passa bene sta giornata. Noè, che era un paraculo e conosceva i limiti del Padre Eterno, diceva: bene, prende, scava e si mette a scavare e pianta una vigna. Ora, la vigna, da tempo che la pianti a tempo che raccoglie l'uva, passano anni, non è che nasce subito l'uva per fare il vino. Dio, commosso, gli disse: Noè, bravo, hai fatto una cosa che pensavi agli altri e non a te, e gli regala altri 200.000 anni di vita. Quindi lei esattamente fa la stessa cosa, prende i semini sperando che qualcuno si commuova e dica: vabbè, via, esci, tu che hai piantato i semi, visto che le zucchine nasceranno fra 2 mesi, puoi uscire prima. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. L'altra volta mi ha colto impreparato al lockdown, questa volta no. Io sono un appassionato della bicicletta, quindi mi sono già comprato i rulli per poter pedalare comodamente in salotto collegato a un video smart, e quindi sono in giro per le montagne, per le tappe che voglio fare. Ah, quindi lei si è messo la bici che può andarci in salottino tranquillamente? Posso andarci in salotto, anche perché i rulli di ultima generazione, appunto, sono veramente belli. Beh, che voglio, già. Lei potrebbe anche proiettarsi sulla parete dietro un paesaggio, non lo so, lo Stelvio, esatto, la salita dello Stelvio. Sì, assolutamente. Così fa tutti i percorsi e si diverte. La televisione smart fa questo. Oppure, e confesso qui, frodo la legge perché abito in una zona di vie molto defilata, e per cui a volte prendo la bici vera e quindi circolo per queste vie rifacendo come un criceto lo stesso percorso 200 volte in un giorno. Vabbè, questo adesso bisogna vedere se sarà consentito o non sarà consentito, però già avere i rulli a casa mi sembra una buona organizzazione. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo dire che sono in modalità sopravvivenza totale da febbraio. Mai smesso, neanche in estate, non sono andato. Non è mai male. Uscito di casa? No, io esco da casa perché sono obbligato a uscire di casa. No, posso capirlo, perché anch'io praticamente, come vede, sto ancora trasmettendo però, la casa. Dopodiché faccio come Batman, entro dal sotterraneo, parcheggio, entro in casa, sono isolato in campagna, ho la mia postazione dove tengo il controllo tutto, e sono in modalità sopravvivenza, nel senso che ma questo è un altro atteggiamento, Maurizio, interessante. Lei non ha mai interrotto lo stato di allerta? Assolutamente. Mi hanno ma nemmeno io ho smontato il mio studiolo nella mia cameretta triste da seminarista. Mi quindi... hanno chiamato paranoico in estate, paranoico perché continuava a dire: ma come mai c'è tutta questa roba qua in sopravvivenza? Tra poco li potrei buttare tutto, non c'è più niente dopo l'estate. Io invece li guardavo e gli ridevo in faccia. E anche la cicala rise la povera formica. Lei ha fatto bene, sì, certo. Quindi non ho mai smesso, non smetterò, perché penso che durerà anni. Vabbè, anni, adesso esca dal suo bunker, sì, la ritrovano durerà, come i giapponesi nella giungla che negli anni 70 ancora pensavano che ci fosse la guerra. Quasi, sì. Guarda, io ho anche un traduttore umano, cioè mia figlia che parla cinese, monitoravo i siti cinesi. Quindi ma la povera bambina è costretta a star con il padre per sentirsi tutti i telegiornali cinesi? No, quando non riesco a tradurre magari ti faccio tradurre. Quindi al seguito una ragazza che parla cinese, utilissima per capire lingue, che succede in Cina. Parla 3-4 lingue, quindi non c'è problema. Sì, però adesso l'avrà studiate per girare il mondo, non per star chiuso nella tavernetta con il papà. Però Maurizio, sei ben organizzato, complimenti. Stella, buongiorno. Buongiorno, io sceglierei il 4, quindi sì. Mi piacerebbe la comune. Ho passato il primo lockdown al telefono con la migliore amica a progettare, a cercare il posto da acquistare per fare la comune, ma è alla fine ipotetica, cioè non credo che sarà reale la possibilità. Sì, ma perché acquistarlo? Invece... Scusi, non ha un amico, un'amica che ha una seconda casa in campagna, una vecchia zia che la può ospitare, tanto per starsene un po', respirare un po' d'aria, no? Sì, però non la farei coi parenti, la comune. Beh, cioè, questo è chiaro, mica detto coi parenti. Ho fatto il lockdown. Scusi, lei si potrebbe scegliere il più gagliardo dei suoi amanti e dire: guarda, se scoppia il lockdown scappiamo via, ci chiudiamo, facciamo una chiusa di 2 mesi in un bel posto, che ci importa. Questa è un'idea, no? Sì, è un'idea, diciamo che era un progetto più ampio, ecco. La realtà è che cercherò una casa, cortile, qualunque cosa possa riempire l'oro vacui di starsene sola chiusa in un appartamento. Paola, buongiorno. Buongiorno. Cosa sta mettendo da parte lei? Ah, mi devo fermare. Mi fa segno Chiappini che devo tagliare. No, resta in ascolto. Fra 30 secondi, fra quello che dovrà essere, ci sentiamo. A tra poco. Melog. Stiamo cercando di vedere come si stanno organizzando gli italiani in vista di un possibile, probabile nuovo lockdown. Stavo parlando con Paola, un'ascoltatrice che si sta organizzando. Come si sta organizzando? Guardi, faccio tesoro di quello che è successo col lockdown precedente. Io vivo da sola, ma ho molti hobby, per cui credo che farò grosse scorte di fili da ricamo, appunto croce, e poi siccome faccio gioielli farò anche grosse scorte di quelle minuterie che non riesco a fare da sola per continuare a produrre le mie creazioni. Vabbè, diciamo che con poco si organizza, non è che è una grande fatica, e quindi può farlo tranquillamente. Sì, questo sì, per il resto sono già piuttosto ben organizzata perché conosco un sacco di gli indirizzi di un sacco di librerie online, biblioteche online da cui scarico i libri gratis e sopravviverò in qualche modo. Ma quello vivremo sicuramente, cerchiamo di sopravvivere in una maniera meno oppressiva possibile nel caso. Luca, buongiorno Luca. Buongiorno. Ascolto. Io sono 15 anni che mi sto preparando a un'avvenienza del genere. 15 anni fa cosa si preparava? La guerra atomica? Non lo so, cosa si preparava? No, ma avevo la possibilità di semplicemente di prendermi una casa in campagna e lo scopo era proprio quello. Qualunque cosa potesse succedere, avevo un rifugio. Beh, se c'era un'invasione zombie era la stessa cosa, che gli zombie poi arrivano dappertutto. Sì. Sì, esatto, precisamente, però... Quella è l'unica cosa da dove si scappa. Sì, esatto, avrei avuto la possibilità quantomeno di difendermi meglio, ma a parte gli scherzi e a parte il fatto che almeno metà degli ascoltatori non telefonano per dire che comunque hanno intenzione di violare le regole imposte dal lockdown, ma sono sicuro che molti lo stanno pensando, però sì, è quello, se dovesse capitare quello che farò io è quello, trasferirmi a 1 ora e mezza da Milano, vivere in campagna e godermi la possibilità di viaggiare praticamente ovunque perché sono in un bosco senza avere problemi di sorta. Diciamo che dovrebbero avere l'accortezza di dirlo un po' prima, non farla all'ultimo momento, dice adesso che dentro che fuori, diciamo da qui a una settimana potrebbe esserci, se no ci sono gli esodi, la gente con i materassi, con i pitali sulle automobili che escono tutti dalle città. Ma chi avesse una casa che può star meglio ci vada, ecco, dovrebbero dirlo prima. Ma io non ho problemi, mi basta mezz'ora di preavviso. Tutto quello che ho qui a Milano ce l'ho anche lì in campagna. Prendo me stesso, salgo sulla macchina e vado. Ma io dovrei solo portarmi l'attrezzatura per andare in onda, l'unica cosa di cui non posso fare a meno. Per il resto mi arrangerei, mi basterebbe un coltello e degli ami, potrei sopravvivere. Sto dicendo, naturalmente sto bleffando. Gaspare, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti. Io dal numero di scala che ricordo, se non ricordo male, mi colloco sicuramente nella numero 2, nel senso che accetto tranquillamente quello che è, non bisognerei di protestare. Però comincia a fare qualche provvista, ecco, diciamo l'acqua sì, minerale, queste cose. Allora, ho sperimentato, mi sento più pronto rispetto alla scorsa esperienza, perché online faccio l'ordine della spesa, la grossa spesa, quindi piuttosto che permanere al supermercato per un'ora, un'ora e mezza, due si ore. Gaspare, a volte... aiuti. Si ricorda le cose che ci mancavano, che erano indispensabili? C'era sì. Qualcosa di cui non si poteva fare a meno, dovevamo arrangiarci, costruircelo sì, in casa, la farina. Io, ecco, secondo la non c'era più farina, non c'era più lievito. Sì, il lievito no, era scomparso. Riuscivamo, mia moglie sa, è molto capace di fare queste cose. Mica poter piantare un campo di grano, macinarlo e fare il pane. La farina sì, ci vorrebbe. Il lievito, si ricorda il lievito? Il lievito. Io andavo al supermercato, c'è il lievito, ce n'è una bustina solo, però non te la posso dare. Io le dico una cosa che mi è mancata in certi periodi, ma adesso mi premunisco, anzi mi ha fatto ricordare questa situazione di oggi. Le corde di chitarra, perché io sì, tranquillo. Le corde di chitarra a volte non sono riuscito a suonare perché avevo le corde. Ecco, adesso non si compra, diciamo, un set di corde di riserva, dice, così almeno posso suonare. Non le viene in mente. Adesso mi sono comprato la chitarra per esercitarmi, una di basso costo per non sciupare quella vecchia, l'amplificatore nuovo. Una chitarra, diciamo, da lockdown, così andante. Esatto. E a me non mi molto basta chiaro, niente, cioè, molto... non mi basta altro, sono anche fortunato perché faccio l'insegnante. Quindi... Chiara, come si sta organizzando per il possibile futuro lockdown? Devo spegnere la radio, vero? Sì, ho spento la radio. Sì. Ecco, allora... Oila, un piacere di parlare con lei. Allora, niente, io già dall'altro lockdown mi sono comprata il ricamo, il piccolo punto, se veramente, che è diverso da altri ricami. E quindi ma filo, cosa serve per fare questo? Degli aghi, dei fili, cos'altro serve? Filo di cotone, l'ago e ci sono delle tele prestampate e tu devi riempire con i colori la figura, insomma. Beh, potrebbe farsene una piccola scorta, tanto non sono cose che costano molto. Sì. Però non è facile trovarle perché adesso le persone non lavorano, non amano molto e sono abbastanza care come tele. Però e poi lei adesso si organizza, magari si organizza, se le compra, le fotocopia, non so come si fa. No, è una tela di canapa, diciamo, e con tutti questi buchi. E poi il mandala l'ho scoperto e ho comprato. Ma lì ci vogliono le sabbie colorate, però, per farlo, no? No, questi sono con i colori, praticamente. Ah, quello è un album col mandala, con i contorni, e lo coloro. E non è per niente facile, perché va bene, ci sono quelli per i bambini. Vabbè, adesso organizzate passatempo, mi sembra Chiara, bada al tempo, il tempo libero di Chiara sarà in punto croce, no, come si chiama, punto non so che, e mandala. Federico invece, Federico cosa fa? Allora, buongiorno Nicoletti. Sì. Dunque, io ho fatto il primo, ma io accetto il lockdown, quello che va fatto. Certo, come ti arriva un calcio sulle palle, che devi fare? Te lo prendi? No, lo accetto. Però siccome il primo ho cercato di farlo virtuoso, quindi leggere, scrivere, disegnare tutte le varie cose, mi sono conservato l'opzione Netflix per il secondo. Cioè, vabbè, quella Netflix non è una cosa che io pensavo qualcosa Netflix. Di più organicamente strutturato, diciamo. No, io parlare con un'amica e dire guarda, se c'è il lockdown invece di consumarci le diottrie su Zoom, facciamo o tu vieni a casa mia o sto a casa tua, almeno ci aiutiamo e ci diamo una mano reciproca, una cosa del genere, senso. Immaginavo. No, io avevo proprio pensato a... Già durante il primo ho resistito a non farmi l'abbonamento per conservarmelo per il secondo. E ha fatto questa botta di vita, si è abbonato a Netflix. E vabbè, io ho buttato il sasso, penso che qualcuno avrà riflettuto e al di là delle reticenze di ammettere di starsi per organizzare a star chiusi dentro un'altra volta, spero che tutto sommato questo sia servito a alleggerire chi oggi vive nell'angoscia di un nuovo lockdown. Alla prossima. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it.